Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a marzo del 1804. Rivoluzione nel diritto, Napoleone vara il nuovo codice, effetti in tutte le zone di influenza. Saint-Domingue proclama l'indipendenza, il nuovo nome è Haiti. Il treno si muoverà con la forza del vapore sperimentata la locomotiva. Temperature bollenti, secondo gli studiosi, un gennaio tra i più caldi della storia. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura parliamo del nuovo codice varato dalla Francia, che avrà effetto tra l'altro su tutte le zone di influenza di Parigi, fra cui la Repubblica Italiana, il Piemonte, la Repubblica Ligure. Ma quali sono le principali innovazioni? Abbiamo intervistato il giurista Stefano Rodotà. Ci sono due novità fondamentali, veramente un cambiamento d'epoca. La centralità del diritto di proprietà come diritto assoluto è la vittoria del borghese moderno che si libera dai pesi feudali. È legato strettamente a questo la libertà di contratto, perché avere una proprietà, non poterla far circolare liberamente, avrebbe significato rimanere nella logica feudale. Libertà e contratto sono l'esito della grande rivoluzione borghese che si è realizzata a partire dagli anni della Rivoluzione francese. E il codice Napoleone, il codice dei francesi, così è chiamato, è il punto d'arrivo, il consolidamento di questa vittoria del ceto borghese. Come è previsto, Jean-Jacques Dessalines ha proclamato il 1 gennaio scorso l'indipendenza della ormai ex colonia francese di Saint-Domingue, ribattezzandola Haiti dal nome che aveva l'isola presso gli indigeni locali. Lo stesso Dessalines, che aveva sconfitto i francesi in battaglia, si è autoproclamato governatore a vita, abolendo la schiavitù. Dopo vari tentativi in varie parti del mondo, è stato l'inglese Richard Trevithick a far muovere un convoglio su rotaie con la forza del vapore. La prima applicazione è stata in una miniera di carbone in Galles, a Penny Darren, dove sembra che stia facilitando notevolmente il lavoro dei minatori. E questo è il suono caratteristico di quella che è stata chiamata locomotiva e di quando viene aperta la valvola della pressione, suono che è stato chiamato, e ha ragione, fischio. È stato un gennaio caldissimo in tutto il territorio italiano per la gioia dei contadini che non hanno assistito alle consuete gelate. Secondo gli esperti, la variazione rispetto alla media è stata di circa 3 gradi centigradi ed è stato il gennaio più caldo in assoluto nella storia della penisola. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.